Ciao Erika, come va? Ma tutto bene, guarda, io stavo un po' pensando, però visto che è mercoledì, come solito, siamo a metà settimana, avrei voglia di ascoltare un po' di musica in questo weekend, però c'ho voglia non solo di musica, c'ho voglia anche di stare sotto palco a dare spallate, bere birra e lattina e poi schiacciarmela in fronte e lanciarla via, stare in un posto caldo, tutti belli accalcati. Guarda, nonostante questa descrizione molto splatter, ho l'evento che fa per noi. Però Mauro, complimenti, perché ogni volta io il mercoledì arrivo che ho voglia di qualcosa, non so, ho delle voglie particolari per il weekend e tu riesci sempre a trovare l'evento che fa per me. Vediamo se ci riesci anche stavolta, vediamo. Allora, ho in mente un concerto che si terrà sabato sera, 25 gennaio, al Freak Out di Bologna, quindi dove si suda abbastanza. Perfetto, di e dove hanno la birra e lattina. Quindi hanno la birra e lattina di un gruppo che tra l'altro a cui io sono molto affezionato, perché furono il mio primo vero concerto da adolescente nel 2000 o 2001, quando avevo tipo 14 anni, quindi una roba molto molto sentita. Si girava ancora coi cavalli quando si girava coi cavalli al Paci Paciana di Bergamo, un concerto bellissimo, ad aprire c'erano i Blue Skin, insomma vabbè, è una roba che io ricordo con molto affetto. E sabato ci sarà questo concerto al Freak Out dei Los Fastidios. Ma sono meravigliosi, ma io mi ricordo che li abbiamo sentiti anche poco tempo fa, cioè poco tempo fa no, però un paio di estati fa e anche le estati precedenti ai mondiali antirazzisti, cioè una band proprio iconica, direi, soprattutto per alcuni valori importanti, l'antirazzismo, l'antifascismo, cioè insomma gente cazzuta. Esatto, e quindi sabato ci sarà birra, ci sarà oi, ci sarà divertimento, per citare appunto un grande pezzo dei Los Fastidios. Allora a questo punto direi che ci manca solo una cosa. Visto che è mercoledì, ci manca un'intervista. Ma se facessimo che adesso chiamiamo tipo Enrico, che è il leader frontman della band dal 1992, e gli facessimo qualche domanda? Allora, adesso mettiamo su un loro pezzo del loro ultimo album, Joy Joy Joy, uscito a maggio del 2019. Nel frattempo telefoniamo a Enrico, così poi vi ascoltate l'intervista. Dai, mi piace Mauro, sono pronta. Te hai sentito, non ce la farai. Han cercato di murare i tuoi pensieri, le tue idee. Metti in campo il tuo entusiasmo e vedrai. Nulla ti è impossibile, nulla è raggiungibile. Hey, guarda avanti, ogni cosa puoi. Hey, non fermarti, ovunque arriverai. Ma hey, non dimenticare hey, che hey, il traguardo che hai tagliato non significa arrivato. Hey, guarda avanti, ogni cosa puoi. Hey, non fermarti, ovunque arriverai. Ma non dimenticare che il traguardo che hai tagliato non significa arrivato. Hey! Hey! Non serve chissà chi o chissà cosa, per cambiare il mondo basta poco, sai. Proveranno a fermarti ancora, non si sono resi conto di chi tu sei. Guarda avanti, ogni cosa puoi. Hey, non fermarti, ovunque arriverai. Ma non dimenticare che il traguardo che hai tagliato non significa arrivato. Hey, guarda avanti, ogni cosa puoi. Hey, non fermarti, ovunque arriverai. Ma non dimenticare che il traguardo che hai tagliato non significa arrivato. Non ce la farai. Han cercato di murare i tuoi pensieri, le tue idee. Metti in campo il tuo entusiasmo e vedrai. Nulla ti è impossibile, nulla è raggiungibile. Hey, guarda avanti, ogni cosa puoi. Hey, non fermarti, ovunque. dimenticare che il traguardo che hai tagliato non significa arrivato. Ehi, guarda avanti, ogni cosa puoi. Ehi, non fermarti, ovunque arriverai. Ma non dimenticare che il traguardo che hai tagliato non significa arrivato. Eccoci qua, siamo al telefono con Enrico dei Los Fastidios, che ringraziamo infinitamente per la disponibilità. Ciao Enrico. Ciao cari, ciao Mauro, sono io a ringraziare voi per la disponibilità, veramente, grazie di cuore a Radio Fucico, per lo spazio che ci concedete annualmente, grazie di cuore. Lunga vita a Radio Fucico. Grazie mille. Beh, partiamo bene con questa intervista, mi piace. Un sacco di energia. Infatti, ricordiamo tra l'altro che l'intervista la facciamo in vista della prossimissima data, infatti tra pochissimi giorni suonate qua a Bologna al Freak Out, ma adesso siete impegnati in un tour anche europeo, giusto? Sì. Sì, diciamo che i Los Fastidios sono sempre impegnati on the road. Siamo una band, come dico sempre, una light band, quindi sempre on the road. Anche l'anno scorso abbiamo tagliato la soglia dei 100 concerti annuali e quest'anno ripartiamo alla grande appunto con un nuovo grosso tour europeo, sempre a promuovere l'ultimo album Joy Joy Joy, uscito maggio dell'anno scorso. Sì, tra un paio di giorni saremo a Bologna, finalmente. In una delle poche date italiane, purtroppo dobbiamo dire questa cosa, è una delle poche date italiane perché noi siamo più impegnati all'estero che non in Italia. Comunque saremo a Bologna, finalmente torniamo in Italia, torniamo al Freak Out, un appuntamento ormai annuale, sarà la solita festa di tutti gli anni, siamo contenti di tornare appunto a suonare al Freak Out. Beh, poi è un posto che è anche un'icona sostanzialmente della città, diciamo, il Freak Out, quindi è un'ottima accoppiata, Los Fastidios e Freak Out. Assolutamente. Ma a proposito proprio di questo tour, ti volevamo chiedere, appunto in Italia ci sono poche date e siete molto in giro per l'Europa, ma secondo te come cambia un po' il vostro pubblico e l'energia che ricevete da paese a paese? Ecco. Ma allora ti dico, l'energia che riceviamo dal pubblico non cambia mai, è sempre la stessa fortissima, intensissima che ci regalano gli amici e le amiche che ci seguono con grande passione ovunque nel mondo, veramente. E se continuiamo, se sono qui sulla strada ancora dopo quasi 30 anni, è veramente grazie a loro e grazie a tutti i ragazzi che ci seguono con tanto entusiasmo. L'energia non cambia, magari cambiano i numeri, ma perché cambia solamente un po', diciamo, la situazione, la scena musicale. E nei vari paesi. In Italia il nostro genere musicale ormai prima di tutto non viene distribuito, nessuno ne parla tranne poche situazioni come in questo caso Radio Fucico, e sai che purtroppo in Italia ciò che non è mainstream purtroppo la gente non lo segue, la gente magari preferisce seguire le cose più commerciali, diverso magari all'estero dove ogni genere musicale, indipendentemente se il genere musicale è di moda o meno, mantiene comunque il suo seguito sempre molto folto. Ecco, questa è un po' la differenza, ma a livello di energia ti posso garantire che l'energia è la stessa che riceviamo a Bologna come a San Paolo del Brasile, uguale, veramente. Anzi, approfitto anche dell'intervista per ringraziare ancora una volta tutti gli amici e le amiche, tutto il pubblico, la grande famiglia Los Fastidios che ci segue con tanta passione e tanto entusiasmo. Fantastico. Tra l'altro il vostro album Joy Joy Joy, che è uscito appunto maggio dell'anno scorso, per continuare un po' sull'onda di quest'internazionalità che portate avanti dalla vostra nascita, quasi dal 91, sì. Joy Joy Joy appunto è cantato in varie lingue, c'è il francese, c'è lo spagnolo, c'è il tedesco, c'è l'italiano, adesso non mi ricordo se c'è anche dell'altro. Lo spagnolo. La prima traccia è spagnola, giusto? La prima traccia, sì, infatti. E quali sono i temi trattati che magari, oddio, restate sempre comunque su temi fortemente sociali voi, ma cosa c'è in Joy Joy Joy magari che prima non avevate approfondito? Ma diciamo che negli ultimi anni stiamo approcciandoci in modo diverso anche alla musica. Stiamo cercando di avere un'attitudine sicuramente più positiva, più sorridente. Diciamo che Joy Joy Joy è un album che secondo me sorride di più. È un album più che vuole essere, già dal titolo Joy Joy Joy, vuole essere più gioioso. Ma questo non perché viviamo in un momento felice e contento, ma perché per me è importante affrontare con gioia e con il sorriso anche ogni difficoltà quotidiana. Secondo me si riesce ad affrontarle meglio. Quindi nel nostro ultimo album praticamente diciamo le stesse cose, raccontiamo le stesse aneddoti, la nostra stessa vita di strada che abbiamo raccontato in tanti album precedenti, magari in precedenza con un pochino più di aggressività. Oggi abbiamo un pochino e addolcito, ma non perché vogliamo addolcire il sound, ma solo perché per dare questa impronta più sorridente, ecco, diciamo sicuramente un album più sorridente rispetto al passato, e vuole essere anche di augurio, di auspicio, di buon auspicio per il prossimo futuro e per affrontare meglio le difficoltà che dobbiamo fronteggiare quotidianamente in questo mondo terribile in quale viviamo. Okay, allora adesso direi che possiamo mettere un pezzo, magari se ci suggerisci tu, un pezzo dell'ultimo album da far ascoltare così a metà intervista. Cosa possiamo mettere? Un pezzo dell'ultimo album? Guarda, io partirei con un pezzo felice, un pezzo anche propositivo, un pezzo che mi fa sempre ben sperare. Proporrei I Have a Dream, che è un pezzo che condivido tra l'altro con uno degli idoli della mia gioventù, Paul Eaton, che fu grande cantante dei Deos Martins, band inglese, poi Beautiful South. Per me è stato un sogno, I Have a Dream, proprio a dimostrare come talvolta i sogni possono diventare realtà. I Have a Dream. I have a dream, makes me feel free. I have a dream, makes me feel free. I have a dream, I spill the beans. I have a dream, I have a dream. I have a dream, a peaceful world. I have a dream, freedom, no war. I have a dream, makes me feel free. So let me dream, let it be. Do anything, anything you wanna do, anything for me and you. Do anything, anything you can do, for sister, brother, Ruth. I have a dream, every day. I have a dream, to find a way. To open the minds, to open the ports. I have a dream, open the heart. Do anything, anything you wanna do, anything for me and you. Do anything, anything you can do, for sister and brother Rude. Sembra why little boy, why little girl. Do anything, anything you wanna do, anything for me and you. Do anything, anything you can do, for sister and brother Rude. Do anything, anything you wanna do, anything for me and you. Do anything, anything you can do, for sister and brother Rude. Torniamo con Enrico di Los Fastidios, ricordiamo che siamo al telefono con lui. Una domanda sul vostro legame con Bologna e dintorni. I mondiali antirazzisti, ci sarete anche quest'anno? Se rifanno i mondiali antirazzisti, speriamo di sì. Infatti, purtroppo l'anno scorso hanno cambiato sede, sono andati troppo lontani, non abbiamo potuto raggiungerli, eravamo anche in giro, eravamo anche impegnati, non siamo potuti arrivare fino a Ariace. Ariace erano infatti E io spero, guarda, non ho ancora sentito, devo ancora guardare. Tu avete qualche notizia? Voi sapete se li rifanno a Bologna quest'anno? Io spero di cuore, perché come hai detto tu, lo fastidio sono un fortissimo legame con i mondiali antirazzisti. Per me sono sempre stati, l'ho sempre definito, l'ho sempre parlato dei mondiali antirazzisti in ogni intervista, definendoli forse il più bel evento italiano di musica, sport e aggregazione. Unisce tutti i vari elementi a noi molto cari, quindi la musica, l'aggregazione, lo sport, la gradinata. E l'antirazzismo, tornino, l'antirazzismo è fondamentale, quella è la base. Beh, facciamo un appello allora, se qualcuno ci fa sapere se i mondiali antirazzisti si faranno i mondialini, chissà. Ma infatti io spero di cuore che tornino veramente nel bolognese, in zona comunque emiliana, perché veramente sono per me sono stati l'appuntamento più bello di tutte le estati. Tenevamo sempre con i Los Fastidios, tenevamo sempre quel weekend libero, indipendentemente dal fatto che suonassimo o meno i mondiali, ma perché volevamo essere presenti, partecipare attivamente anche con la nostra squadretta di tifosi della nostra squadra di Verona, la Virtus Verona, che gioca in Serie C a pallone. Ci tenevamo veramente ogni anno a essere presenti, quindi spero veramente di cuore di tornare ai mondiali antirazzisti anche quest'anno. Speriamo. Perfetto. Io ti faccio invece un'altra domanda che riguarda invece un altro lavoro discografico che è uscito poco tempo fa, se non sbagliamo. Infatti è uscito un 7 pollici cantato da Elisa Dixon, che se non sbagliamo è la vostra tour manager, giusto? Che ha ricantato i vostri pezzi mettendoci questa voce nuova, insomma. Com'è nata questa scelta? Ma allora, Elisa diciamo è l'anima dello Los Fastidios, perché oltre ad essere la mia compagna e a maggio mia futura sposa. Wow, auguri! Wow, grazie di cuore. È veramente, lei è proprio l'anima dello Fastidios, perché lei si occupa del booking, il tour manager, sempre con noi, si occupa delle foto, gestisce il banchetto, il merchandise, ha realizzato anche gli ultimi videoclip della band. E da un po' di anni, era curioso, perché da un po' di anni ormai il pubblico si era affezionato alla figura di Elisa, sempre onnipresente, ormai da 8 anni onnipresente a tutti i concerti, e tutti ci chiedevano: ma quando vedremo Elisa cantare una canzone con i Los Fastidios? Detto fatto, accontentati. L'anno scorso, ancora nel 2018, abbiamo così, quasi per scherzo, abbiamo detto: Elisa, lei è arrivato il tuo momento, facciamo un paio di vecchi pezzi di Los Fastidios, proviamoci, vediamo cosa viene fuori, andiamo in studio. Se poi non venisse fuori niente, ce la terremo come una registrazione karaoke da tenersi in famiglia e da riderci sopra. E invece è venuto fuori qualcosa di molto serio, di molto piacevole. E da quel momento è uscito il primo 7 pollici nel 2018, dicembre 2018. Un anno dopo, esattamente appunto un mese fa, è uscito il secondo volume, nel quale ci sono appunto 3 vecchi pezzi: Los Fastidios, In 1968, Skanking in the Ghetto, e Reggae Rebels, cantati da Elisa. Che dire, Elisa secondo me, ma non solo secondo me, sta dando veramente ha dato una marcia in più allo Fastidios. Da dicembre del 2018 è ospite fissa sul palco a cantare alcuni pezzi con noi, e secondo me, come dico sempre dal palco, per me quello è il momento più bello di tutto il concerto. Niente, che dire, siamo soddisfattissimi, anche perché fra il resto la critica ha recensito anche molto bene questa nuova uscita discografica, sempre su Cobb Records. Siamo contentissimi, sono contento, e anzi invito ancora tutti a venire appunto sabato in quel del Freak Out, dove Elisa sarà sul palco con noi a cantare una manciata di pezzi durante il concerto. Fantastico. Allora guarda, adesso ti ringraziamo tantissimo, rinnoviamo gli auguri a te Elisa a questo punto per le prossime nozze. E festeggiamo con un concerto, spero. Festeggiamo con un concerto. E adesso, guarda, se sei d'accordo, io chiuderei con uno dei pezzi che ha reso celebri i Los Fastidios, una canzone di cui abbiamo molto bisogno in questo momento, quindi alzate tutti i volumi. Io metterei Antifa Hooligans. Antifa Hooligans, come no, certo. Più che volentieri, ci sta sempre. Quella sta bene sempre, sta bene alla colazione, pranzo, cena, notte, va sempre bene, è la colonna sonora perfetta per ogni momento della vostra giornata. Antifa Hooligan, sempre. Grazie di cuore. Grazie Paolo, mille, grazie Enrico. Federica, per questo spazio concessoci. Vi aspetto, dai, vi aspetto sabato in quel del Freak Out. Sarà una bella festa, ci divertiremo sicuramente. Grazie di cuore e lunga vita a Radio Fucico. Grazie ancora. Grazie mille. Joy, joy, joy. Grazie. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Antifa. Come on, come on.